Nel taxi. Qualche minuto più tardi. La signorina americana è in vacanza? Non è americana, è inglese, vero? Sì, inglese. Sono di Cambridge. Ah, non è di Londra. No, non sono di Londra. Are you from Florence? No, non sono di Firenze. Sono di Greve in Chianti, dove c'è la festa del vino. Ah, oh, yes. When are we going there? Quando? Beh, domani. Ah, siamo all'albergo. Prendo la valigia della sua fidanzata. Fidanzata? What did he say? Oh, niente, niente. Andiamo.